Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Oggi parliamo di parità di genere, ma da un punto di vista di carriera e di soldi, che sono due cose che contano, no? Nella nostra quotidianità. La notizia che in Islanda è diventata legge la parità salariale tra uomini e donne ha riacceso il tema, l'argomento. Perché? Perché benché in linea di massima in Italia la parità salariale sia un fatto conquistato tra uomini e donne, poi in realtà si scopre che un po' in tutti i settori poi le donne vengono pagate meno. Per esempio, in questi giorni si sono rinnovati i vertici di grandi aziende, Eni, Enel, Leonardo, e mentre alla presidenza sono state confermate Emma Marcegaglia per quanto riguarda l'Eni, Patrizia Grieco per quanto riguarda Enel, Bianca Maria Farina è diventata presidente di Poste sostituendo un'altra donna, Luisa Todini. Ecco, è interessante notare che la retribuzione dei presidenti è stata fissata a un tetto, mi pare che sia dei 240.000 euro, e quello è un tetto al quale le donne devono attenersi, mentre per quanto riguarda le retribuzioni degli amministratori delegati, che normalmente sono uomini, ma lì sui soldi non c'è stato un tetto. Insomma, tra conferme e avvicendamenti anche nelle grandi aziende italiane, alcune donne presidenti ci sono e lo sono grazie alla legge 120, la legge di cui è stata prima firmataria Lella Golfo, che ci raggiungerà tra poco insieme, con lei l'aveva cofirmata la attualmente europarlamentare del PD Alessia Mosca. Ci sono dunque donne presidenti, ma perché non ci sono donne amministratore delegato in grandi aziende? È questo il vero ostacolo che lascia un po' il dubbio che anche la legge 120 sia stata applicata solo parzialmente. Voglio proprio sapere cosa ne pensa l'agente provocatore di questa domenica. Benvenuto, buona domenica da Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Ciao. Buongiorno Maria. Allora, donne presidenti, sì, sia pure con, come dire, molta parsimonia, ma donne amministratore delegato, no. Perché? Allora, voler essere benigni dovremmo dire che forse in giro non ce ne sono abbastanza, a voler essere un po' maligni forse il governo, a trazione ancora renziana, ci tiene a fare vedere di essere dalla parte delle donne, ma insomma fino a un certo punto. Ecco, quando si tratta di decidere la ciccia del potere, no, diciamo, quella non si divide. Giudichiamo i fatti, Maria. Giro di nomine che è stato fatto dal governo in questi giorni, non ci sono donne amministratori delegati, e anche se sono state confermate tutte le donne presidenti, e in ciascuno dei consigli di amministrazione delle società ci sono almeno due donne, questo va ricordato, addirittura tre a Poste, che esprime una nuova presidente donna. Ecco, senza le quote rosa, cioè senza la legge 120, lo chiedo a un giornalista che si è spesso appunto espresso su questi argomenti, secondo te avremmo nemmeno le presidenti, probabilmente avremmo, e sicuramente non avremmo le presenze nel consigli di amministrazione. Dunque, il bilancio, per quello che senti anche tu, è positivo? Io per principio devo dire, essendo un uomo molto a favore delle ragioni delle donne, non ho mai creduto al principio delle quote rosa. Dopodiché siamo in Italia e mi sono convinto nel corso del tempo che forse è stato un bene introdurre la norma sulle quote rosa, perché è stato l'unico modo in qualche modo per spingere la società a innovarsi. Spesso non si può forse forzare, cambiare, imporre una società dei cambiamenti per legge, culturali, non in generale, probabilmente su questo tema sì, era necessario farlo. Imporsi, certo. Io, guarda, lo dico, ma esprimo così un giudizio parzialissimo di un giornalista. Ieri mi è capitato di finire un anno a parlare con un gruppo di ragazzi e sono rimasto colpito che in questo consesso di ragazzi che mi ascoltava non abbia alzato la mano una sola ragazza per farmi una domanda. Erano tutti quelli che facevano domande sui destini del mondo, su quello che, devo dire che mi stupisce, perché in circostanze simili, quando appunto anch'io vado a fare dibattiti, vedo che le ragazze sono normalmente molto preparate, molto desiderose di partecipare. E, posso allargare il tema alla meritocrazia, che è uno dei limiti forti e a mio avviso è una delle palle al piede del paese, perché non avendo selezionato nella classe dirigente, in generale non avendo preso il criterio meritocratico, assunto il criterio meritocratico come criterio per la selezione ovunque, c'è stato un progressivo peggioramento, no? in tutti i settori. Si è discusso molto del realismo col quale il ministro Poletti ha detto: guardate, che più che mandare un curriculum serve andare a giocare a calcetto con chi vi potrà poi aiutare a cercare un posto di lavoro. Ha sintetizzato così quello che decine e decine di convegni e dibattiti, anche quelli ai quali partecipo io con le donne, si sintetizza al bisogno di fare network, no? Poletti ha detto: fate network andando a giocare a calcetto, è così? Guarda, Poletti ha detto una verità, ma anche qui torniamo al discorso di prima. Siamo sempre in Italia, e allora se quello che Poletti ha detto è vero in linea di principio e in qualche modo ha stracciato il velo e ha detto che il re è nudo, dopodiché però, siccome siamo in Italia il principio meritocratico non è applicato, non è la regola, diciamo, nel mondo del lavoro, nel mondo delle professioni, stabilmente un ministro che fa un'affermazione del genere in qualche modo è come se alimentasse lo status quo. Adesso non vorrei allargare ancora di più il discorso, ma esattamente il discorso vale lo stesso ragionamento che si può fare per le quote rosa. Affermare principi, tra virgolette, politicamente corretti non è un'ipocrisia, è un modo per far avanzare la società. È una delle grandi forze della società americana, che è una società nella quale le donne si sono andate avanti moltissimo, molto più di quanto non è accaduto in qualunque altro paese occidentale, è perché negli Stati Uniti quei principi, il principio di parità di genere, il principio del rispetto dell'altro, della diversità, è stato imposto in una cultura degli americani, e quindi è importante che queste cose si discutano e che in qualche modo ogni tanto ci si prenda il diritto di scandalizzarsi se un ministro della Repubblica fa una battuta del genere, perché lasciando intendere che pensa che quello sia il modo giusto per trovare lavoro. Perché fotografa l'esistente e non lascia, intuire la speranza che possa cambiare. E dunque, se uno non va a giocare a calcetto, per esempio, se una donna che non gioca a calcetto non ha nessuna possibilità di far capire quanto è brava e quanto meriterebbe di far parte, per esempio, di un team. Per dirla ancora più chiaramente, una battuta del genere, che peraltro tradisce anche un pregiudizio di genere, perché sappiamo che il calcetto è una tipica attività maschile, una battuta del genere può farla liberamente un commentatore, un la potresti fare tu, forse la potrei fare io, ma non la deve fare un ministro della Repubblica. Un ministro della Repubblica non deve fare queste battute. Grazie al nostro agente provocatore Alessandro Barbera, che è stato con noi questa domenica. Tu sei multitasking, Alessandro. Noi siamo ferocemente contrari, almeno la domenica, al multitasking. Grazie, grazie Maria. Ma tu lo sei? Fai tante cose tutte insieme, come tutti i giornalisti? Sì, sì, faccio anche il genitore, che è una cosa piuttosto impegnativa. Ecco, allora unisciti alla nostra battaglia la domenica, se si può facciamone una sola. Va bene. Grazie, buona domenica. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Questo è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Margherita Bui, attrice amatissima. Grazie, buongiorno. Noi non sappiamo bene come dividerci in questo momento, perché in TV è tornata dal 25 marzo con la serie In Treatment e interpreta un'attrice che va in psicanalisi da Sergio Castellitto e però al cinema prossimamente il 6 aprile torna con Piccoli crimini coniugali e il nuovo film di Alex Infascelli e anche qui recita con Sergio Castellitto. Meglio il Sergio Castellitto marito o il Sergio Castellitto psicanalista? Delle volte le cose si confondono, perché diciamo che anche nel film Piccoli crimini coniugali diciamo su un rapporto che arriva insomma a quel punto in cui poi si fa una specie di analisi o psicanalisi o si resetta tutto, quindi insomma in qualche modo siamo nel film, siamo uno lo psicanalista dell'altro e nel caso di In Treatment invece è lui che psicanalizza lui me, però anch'io mi psicanalizzo da sola, perché in fondo poi quando uno decide di andare da uno psicologo o uno psichiatra è perché in qualche modo ha deciso di mettersi in discussione, insomma. E di fare un viaggio dentro se stesso. È stato molto divertente qualche sera fa vedere che Valeria Bruni Tedeschi, che ha vinto il David di Donatello, l'ha dedicato alla sua psicanalista. Immagino che abbia avuto insomma abbastanza da lavorare, insomma, perché lei poi io la stimo moltissimo, e poi comunque i film che fa lei come autrice, come regista, hanno proprio sempre un taglio molto psicanalitico, nel senso che proprio parte molto da se stessa, quindi di avere fatto un ottimo lavoro, perché il risultato a me piace molto, cioè quello che fa lei mi interessa sempre moltissimo. Recitando il ruolo dell'attrice nella serie TV per Sky In Treatment, immagino che abbia un po' messo anche se stessa. Naturalmente l'età è quella, la professione è quella, perché io comunque appunto sono un'attrice, ho delle cose diciamo che potrebbero anche essere dei punti in comune con la mia vita, casualmente però, perché comunque in realtà è un adattamento, sì, una traduzione infatti. E poi un adattamento, tra l'altro l'aveva fatto in America Deborah Winger, che è stata per me insomma il mito dei miei primi anni, in cui non sapevo ancora bene se avrei fatto questo mestiere o no, e poi ho continuato anche ad esserlo, però per me è stata un'emozione vederla lì recitare le cose che devo fare io. È chiaro che ho pescato, ma questo si fa sempre, insomma, delle cose mie, delle paure che mi appartengono, E poi ne ho aggiunte altre che però potrebbero essere benissimo delle mie paure future, purtroppo. Ma con l'età e l'esperienza, anche nella vostra professione ci si corazza di più? Non lo so, no, da una parte sì, dall'altra si ha più consapevolezza e facilità nel fare emergere cose che magari prima erano più nascoste o di cui si aveva più pudore, forse. Quindi c'è più sicurezza nel tirarle fuori? Sì, forse c'è anche più, sì, forse anche più sì, un desiderio anche di comunque a questo punto di provare fino in fondo, anche mentre si recita qualche cosa, un sentimento, una reazione, una rabbia o un'emozione, perché non so se è più consapevolezza, ma forse anche un po' sì, o anche un po' lasciarsi andare, che è un regalo che ti fa perlomeno uno. Che ti fa l'età. Esatto, ecco. Sì, perché si ha meno paura di dire quel che si pensa, no? Sì, ecco, sì. Noi qui a Nessuna è Perfetta ci occupiamo proprio per statuto di lavoro da un punto di vista femminile. E a Hollywood molte attrici negli ultimi anni hanno più e più volte chiesto una parità di trattamento, non soltanto per le retribuzioni, ma anche per i ruoli, perché per esempio più e più volte è stato ricordato che col passare degli anni alle attrici vengono offerti ovviamente meno ruoli di quanto non venga offerto per esempio a un Clint Eastwood o a Robert Redford, che ha recitato fino a più di 80 anni. Certo. Che ne pensa? Qui in Italia immagino che la situazione non sia molto diversa. No, però... per onestà devo dire che i ruoli migliori me li stanno offrendo adesso, stranamente. Però devo fare un discorso, insomma, generale. Di generale, sì, diciamo che gli uomini possono avere dei ruoli anche da amanti o da personaggi ancora affascinanti fino a un'età, ma questo succede anche nella vita, cioè siamo noi le prime a non crederci, no? A un certo punto, sì, quando siamo un po' così in avanti con l'età, però è anche un po' così. Devo dire che però la povertà di ruoli è anche una povertà proprio in generale, cioè proprio di fantasia nel scrivere le varie fasi della nostra vita, no? Sia per quanto riguarda gli uomini sia per quanto riguarda le donne, mi sembra, cioè ci si ferma ad un'età, cioè la grande produzione è su un'età che va, non so, dai 16 ai 30 anni, no? In cui sì. Ci sono le passioni, gli amori e più o meno si scrivono storie intorno a quell'età o questa. Poi è sempre più complicato, no? Perché poi non ci si confronta veramente con l'età. Forse non lo fanno proprio anche gli sceneggiatori, chi scrive. Strano però, perché prima. Ci sono delle serie televisive, per esempio americane, penso Grace and Frankie, che hanno due attrici quasi ottantenni che stanno andando benissimo, no? Jane Fonda e Lily Tomlin. Ma noi lo accettiamo da altri paesi, da altre culture, non lo accettiamo dalla nostra, non lo so più qual è il motivo. Forse anche però, anche perché tante donne magari non si mettono, vogliono forse essere sempre molto giovani, molto fare dei ruoli molto... Cioè, anche apprezzare, no? Anche noi apprezzare la nostra età, cioè quindi andare avere una consapevolezza della propria età, no? E rende forse anche più semplice l'idea che quella donna, che quell'attrice potrebbe fare dei ruoli per quell'età. Cioè io vorrei arrivare a questo, mi piacerebbe, perché ci sono tante donne che possono ancora essere rappresentate e descritte. Devo essere io però la prima a non spaventarmi della mia età, a non spaventarmi della... No? Forse c'è un sistema che è quello di mettersi dietro la macchina da presa e creare i personaggi... Sì. Ha mai pensato di fare la regista? Anche, cioè scriverseli, sì. Volerli, proporli, cioè quindi anche... mettersi un po' in gioco, questo forse in America lo fanno un po' di più, forse anche in Inghilterra pure ci sono tanti film che sono, no? Anzi, che raccontano proprio di donne di donne più grandi, no? Molto divertenti anche, perché poi c'è un'età in cui puoi fare anche molto ridere, no? Puoi anche fare, puoi finalmente liberarti di tutti quei cliché magari che, no, che sì, è dovuto, certo, tutta quella cosa che hai dovuto portare avanti per una vita, non so, la bellezza, la, alla fine ti puoi anche liberare ancora di più, e secondo me c'è tanto pubblico che vuole questo, che vuole sorridere con dei personaggi, sì, femminili nei quali ritrovarsi. Sono convinta che chi ci ascolta, per esempio, magari sì, si specchierebbe, così, certo, come si è specchiata in tanti film con Diane Keaton. Con Diane Keaton, ecco, per esempio, ma anche Meryl Streep si prepara ad essere una donna che farà ruoli per sempre, perché comunque sta accompagnando i suoi ruoli, no, insieme alla sua vita, cioè non trovi una differenza, un voler essere sempre un'altra cosa. Però c'è anche una grande paura da parte dei produttori in Italia. Si seguono dei filoni, ora c'è questo filone della commedia, filone del giovanilistica, no? Cioè, comunque, no, vabbè, un po' anche questo, purtroppo, sì. Allora dobbiamo assolutamente far arrivare ai produttori, noi che andiamo al cinema e che ci divertiamo col cinema, la richiesta di essere un pochino, di pensare un pochino out of the box, no? Sentire, sì, anche perché poi al cinema, diciamo la verità, ci vanno i ragazzi, ma ci vanno molto di più, ci vanno i cinquantenni e i sessantenni. Esatto, che non si riconoscono in tanti film, perché io insomma sono andata a vedere di questi film anche, eccetera, perché comunque bisogna sostenere il cinema italiano. Però veramente io vedo delle facce, insomma, così, sì, un po' divertite, ma anche molto poco, ma anche un po' deluse, anche un po', insomma, no? Credo. Grazie Margherita Bui, intanto la verremo a vedere con Piccoli crimini coniugali con Sergio Castellitto. Buona domenica, grazie. No, grazie. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il terzo blocco di questa puntata dedicata al tema della parità di salario, alla parità di opportunità che vengono offerte ai livelli anche più alti alle donne. Vediamo se è davvero così. Ne parliamo con i nostri due esperti di questa settimana, Lella Golfo, fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario. Al suo nome, oltre che a quello di Alessia Mosca, è legata alla legge che ha introdotto in Italia le quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate. Buona domenica, Lella Golfo. Anche a voi e a chi ci ascolta, buona domenica. Ed è con noi il senatore Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato. E proprio nelle ultime settimane, senatore Mucchetti, la commissione che lei presiede in Senato ha ascoltato in audizione i vertici delle principali aziende a partecipazione pubblica, Eni, Enel, Terna, Leonardo, Poste, per capire i criteri in base ai quali il governo nomina o conferma i manager di Stato, che sono già stati ovviamente nominati. Lei ha capito quali sono questi criteri? I criteri sono fissati in alcune direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il problema è come vengono eseguiti, come vengono applicati questi criteri. I criteri di per sé sono ottimi, ma per esempio il riferire al Parlamento, che è, come dire, l'assemblea degli azionisti, dell'azionista governo, che è azionista di tutte quelle società che lei ha ricordato prima, non viene fatto, e invece dovrebbe. Cioè, il primo criterio è se io devo confermare o cambiare un consiglio di amministrazione, un amministratore delegato, un presidente, nel triennio precedente o nei 6 anni, a seconda se è stato in carica per più tempo, ha fatto bene o ha fatto male? Questa è la prima domanda da porsi. E per fare questo, naturalmente, noi ci abbiamo provato come commissione, abbiamo fatto un lavoro che è consistito non tanto nelle audizioni, quanto nell'analisi della documentazione societaria, bilanci e presentazioni agli analisti, business plan, e sulla base di questo abbiamo ascoltato anche i gerenti delle imprese. Ecco, questo è il primo criterio, e naturalmente non sempre questo criterio viene osservato come dovrebbe. Nella Golfo, qualche settimana fa, lei ha fatto un appello pubblico chiedendo al governo di destinare alle donne anche dei ruoli di amministratore delegato e non solo di presidente. Cerchiamo di far capire a chi ci ascolta perché non è sufficiente avere delle donne presidenti. Ne abbiamo, no? Presidente di Enel, presidente di Poste, presidente di Eni. Perché è importante che invece ci siano donne amministratore delegato, cosa che non è accaduto nelle recenti nomine? Ma sicuramente, perché il ruolo è completamente diverso da presidente amministratore delegato, con tutto il rispetto per le presidente. Però io vorrei ricordare, concordo con il senatore, che quei criteri che lui ha esposto non mi pare che sono stati applicati. Cioè, questo è il problema. Io personalmente, oltre che incontrarmi con le società incaricate alla selezione, perché il ministero aveva incaricato 3 società di cacciatori di teste, insomma. Esatto, e ho portato personalmente, messo nelle mani del sottosegretario De Micheli, oltre 100 curricoli eccellenti. Però poi vedo che le nomine purtroppo sono politiche, diciamolo proprio con forza. Cioè, bisognerebbe scegliere la meritocrazia. Per carità, le presidenti sono delle persone competenti, non è questo, però il raggio è molto più ampio. Noi abbiamo ancora quasi, il governo ha ancora 60 più o meno società da rinnovare, società che non sono quotate, sono della pubblica amministrazione. Io spero che almeno in questo questa scelta si faccia. Non ci si può fermare a un misero 6% tra presidente e amministratore delegato nelle società del governo, nelle società del paese, perché le società quotate vanno molto meglio. Dove il mercato decide, la situazione è completamente migliorata. Sono cambiati i CDA delle società quotate. Volevo sentire senatore Mucchetti se è d'accordo su questo. L'introduzione e la presenza di donne di qualità, non per il fatto di essere donne, ma per il fatto di avere i requisiti di competenza e le qualificazioni per fare bene il loro lavoro, nelle aziende, hanno sensibilmente cambiato in meglio la qualità delle aziende stesse? Allora, io non mi appassiono alla competizione se siano meglio le femmine o i maschi. Io mi appassiono molto alla competizione di chi è più bravo, al di là del sesso. Io credo che siccome le donne molto spesso sono molto brave e molto spesso sono meglio dei maschi, è sufficiente quello. Sono d'accordo con le quote rosa per smuovere una situazione incrostata. Ma però io penso anche che, per esempio, non è detto che tutte le donne presidenti abbiano esercitato la funzione di presidente cogliendo le possibilità di ruolo e anche di esercizio del potere che la presidenza offre. Non è vero che il presidente non conta niente in un consiglio di amministrazione, può contare tantissimo, e non mi pare che sempre le donne presidenti. Questo perché? Donne, per timidezza, Mucchetti, senatore? Ma non lo so, io non è detto che quelle donne fossero le più brave a fare quel lavoro. Parlo in generale, non mi interessa personalizzare. Primo. Secondo, sono d'accordo sul fatto che quella scelta fu anche una scelta un po' furbesca, no? Cioè, il potere vero lo diamo agli uomini che fanno gli amministratori delegati. Il ruolo del presidente lo affidiamo alle donne, contando sul fatto che questo ruolo venga interpretato, come dire, senza metterci tutta la grinta, tra virgolette, la con garbo, no? Come si dice, no? Con garbo. Però ecco, il garbo non serve spesso. Che mentre le retribuzioni degli amministratori delegati sono rimaste elevate, i compensi dei presidenti sono stati ridotti sotto il tetto dei 240.000 euro, e anche questo avviene perché in coincidenza con l'ascesa al trono delle donne. Quindi, insomma, è stato non a caso noi nella nostra risoluzione abbiamo impegnato il governo a perseguire la parità di genere al di là delle funzioni, cioè come dice anche l'onorevole Costa, arrivare alle donne amministratore delegato e a delle donne presidenti che si fanno sentire, il cui peso viene riconosciuto dal mercato. Ecco, questo è, e quindi di nuovo la meritocrazia deve avere il sopravvento sulle amicizie. Se posso dire comunque, per esempio, se no andiamo tutti a giocare a calcetto. Esattamente, e come suggerisce il ministro Poletti, che è particolarmente singolare, cioè la defenestrazione di Francesco Caio alle Poste, è stata una scelta assai singolare, anche in vista del fatto che si vuole assegnare, comunque cambiare di proprietà il 30% delle Poste, vuoi che lo dai al mercato, vuoi che lo dai alla Cassa Depositi e Prestiti. È singolare che il governo che ha nominato uno dopo un anno e mezzo lo cambia. Beh, allora si era sbagliato, ma allora mi devi dire il perché. Ecco, questo che io voglio sapere. Perché Caio non andava bene alle Poste? Perché ha detto di no all'ingresso delle Poste nel salvataggio JP Morgan del Monte dei Paschi di Siena? Perché non ha speso qualsiasi cifra per prendere il gestore di asset management, Pioneer? Perché ha impiegato un anno a quotare le Poste anziché farlo subito, perché voleva quotare una cosa seria, non una cosa raccogliticcia? Basta andare a vedere i bilanci e si capisce che aveva ragione. Beh, queste erano tre medaglie da appuntare sul petto di Caio, non tre ragioni per sostituirlo. E nessuno nella vostra commissione vi ha dato risposte, almeno non per ora. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo subito. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di parità, del ruolo delle donne nelle aziende e di come forse potrebbero fare di più anche per le altre, per quelle che non diventano presidenti. Lella Golfo, ma Se diciamo il passo avanti c'è stato grazie alla legge di cui lei è cofirmataria, esatto, con Alessia Mosca, se il passo avanti c'è stato e se, come diceva Mucchetti, è alla competenza che uno deve guardare, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo, perché c'è ancora, secondo lei, la resistenza ai vertici per cui alle presidenze sì, va bene, lasciamo le donne che sono brave, competenti e sanno fare bene il lavoro del presidente, però il lavoro di amministratore delegato resta, ce lo teniamo tra noi. Che risposte le danno quando lei, facendo la finta tonta, ha provato a chiedere? Perché so bene che questa domanda lei l'ha posta tante volte. Ma è chiaro che nominare una donna alla guida, cioè amministratore delegato dell'ENI, significherebbe rompere veramente gli argini e da lì non si tornerebbe mai più indietro. E in fondo qual è il problema? Manca la volontà politica. Ma non le dicono, ma mancano le persone giuste? Se si fa il discorso di meritocrazia, le donne ce ne sono, quanto ne vogliamo, ce ne sono tante. Io proprio li incontro tutti i giorni, ma è un problema politico. E gli uomini vogliono tenersi il potere, punto. Allora, poi le donne hanno la colpa, secondo me, di dovrebbero essere più consapevole della leadership femminile, dovrebbero fare più lobby come fanno gli uomini. Cioè questo, allora, le donne averci devono lavorare sicuramente per il cambiamento. E io sono convinta che bisogna far scendere proprio quello che io chiamo l'ascensore di cristallo. E qua che do quasi ragione al senatore, perché questo non c'è stato. Ecco, le donne dovrebbero al potere, anche da presidenti, avrebbero dovuto fare, secondo me, qualcosa di più verso le altre donne all'interno delle proprie aziende, dove ci sono i problemi. Ci sono i problemi che il 24% di donne al primo figlio deve lasciare il lavoro, che spesso la busta paga non è uguale. Allora, tutte cose che le donne dentro un'azienda dovrebbero fare. Invece l'impressione è che una volta arrivata alla presidenza una guarda ai propri vantaggi, alle proprie competenze, eccetera, ma quello che comunque l'ha portata lì, perché se una è diventata presidente lo è diventata anche perché c'era una legge che favoriva l'ingresso di donne ai vertici, ecco, quello viene dimenticato. Sono arrivata e tanti saluti alle altre. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Senatore Mucchetti, nella sua esperienza politica e prima ancora per tanti anni di giornalista di grande successo, c'è questo atteggiamento che quando una donna ce la fa, ce l'ha fatta, chiude le porte alle spalle, chi si è visto si è visto? È andata via la voce. Quando una donna ce la fa? Chiude la porta alle spalle e invece di rinviare l'ascensore, come suggeriva Lella Golfo, si tiene l'ascensore tutto per sé. È un atteggiamento anche comprensibile, perché sono poche le donne che arrivano ai vertici e a quel punto, come dire, tirano i remi in barca. Ma forse bisognerebbe, qui si aprirebbe un grande discorso, ed è sull'approccio alla gestione aziendale, ma vorrei quasi dire alla vita, un approccio al maschile o un approccio al femminile. Ci sono degli uomini che hanno un approccio al femminile senza essere gay, e non ci sarebbe niente di male a esserlo, ma diciamo, per capirsi, e ci sono delle donne, e questo è frequente nel mondo manageriale, che hanno un approccio invece maschile, quindi più aggressivo che collaborativo, più conflittuale che promozionale delle attività di quella comunità di persone che comunque sono le imprese. questo è un tema culturale, quasi antropologico, che andrà a sistemarsi nel tempo anche con l'evoluzione della società nel suo complesso. La mia sensazione è che qualche volta capita che le donne, per arrivare in alto, facciano una tale fatica che quando ci arrivano, come dire, non hanno più il fiato sufficiente per fare anche quest'altra corsa augurabile che lei diciamo ci sta proponendo. Qualche volta è capitato. Devo anche dire che io ho avuto molti capi donna nel corso della mia carriera giornalistica e mi sono trovato benissimo con tutte. Ho avuto delle grandi persone che hanno avuto ruoli di responsabilità nei giornali e questo mi ha fatto piacere. Naturalmente anche nei giornali il momento clou sarà quando il direttore di Repubblica sarà una donna o il direttore del Corriere sarà una donna o il direttore del 24 Ore sarà una donna. Sì, per questo i precedenti ci voglia ancora un po' di tempo. No, i precedenti internazionali non ci hanno incoraggiato, a dire la verità, perché sia la direttrice di Le Monde che la direttrice del New York Times sono state, come dire, rapidamente defenestrate, ma noi non ci perdiamo d'animo e continuiamo ad avere, come dire, un atteggiamento positivo sul futuro. Io ringrazio il senatore Massimo Mucchetti, ringrazio Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario. Con loro abbiamo parlato delle nomine che sono state fatte di recente nelle grandi aziende, da Eni, Enel, Poste, e quelle che saranno fatte e dovranno tenere conto anche della parità di genere. Grazie, buona domenica. Grazie, buongiorno a voi. Anche questa puntata di Nessuno è Perfetta è arrivata alla fine. Staccate tutto e ricordatevi che il multitasking è una fregatura. A domenica prossima. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30.